Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Come sapete, il Falco il Gabbiano ha ospitato tantissimi musicisti, cantanti, rockstar, ha raccontato le gesta, anche a volte piuttosto sregolate, dei grandi protagonisti dell'epopea del rock. Uomini, donne che hanno donato la loro anima alla musica, che hanno raggiunto il successo, magari all'improvviso, magari gradualmente, e hanno bevuto il calice delle luci e delle ombre che si accompagnano inevitabilmente alle vite così tumultuose. La protagonista di oggi si è avvicinata al rock and roll, ma anche al mondo del sesso e della droga, quando aveva solo 15 anni, nella Los Angeles degli anni 70. Lei è Sherry Curry ed è la front girl, la cantante del gruppo rock femminile Le Runaways. Uno dei grandi cuori pulsanti nella scena del rock sono stati naturalmente gli Stati Uniti, divisi in due tra Los Angeles e New York, e le Zeppelin Doors, ma anche David Bowie, quindi anche molti inglesi in qualche modo sono diventati delle icone musicali che hanno dominato i palchi della città californiana di Los Angeles, e questo periodo è ricordato come l'epoca d'oro della scena del rock, che da genere musicale si è trasformata in uno stile di vita fatto magari anche di camere d'alberghi sfasciate, di abusi, di droghe anche pesanti, di libertà sfrenata. Ecco, essere adolescente nel Los Angeles del 1975 permette di avvicinarsi a grandi artisti, di entrare in contatto anche con le droghe, però se si ha fortuna si può anche far colpo su qualche produttore musicale, e questo è quello che succede a lei, a Sherry Curry, quando una notte in un locale che si chiama Sugar Shack incontra Joan Jett e un produttore che è Kim Foley. Loro sono colpiti perché lei ha un look eccentrico e diciamo pure erotico, le propongono di entrare a far parte di una rock band interamente composta da ragazze. Ma vediamo di conoscerla meglio. Intanto io dirò Sherry Curry all'inglese, all'americana, forse Sherry Curry, ma se ci adeguiamo a questa pronuncia che ho inventato io in questo momento. Lei nasce il 30 novembre del 1959 a Encino, in California. Il padre si chiama Don, la madre Mary Harmon, ed è una attrice. Lei ha una gemella, Marie, e insieme a loro ci sono anche una sorella maggiore, Sondra, detta Sandy, e un fratellino, Don. E poi, come spesso accade nella vita e soprattutto tra i protagonisti del Falco e il Gabbiano, quando lei ha 12 anni si interrompe la armonia familiare. La madre divorzia perché si innamora di un altro uomo, il padre abbandona la famiglia, se ne va in Texas e si lascia dietro dei figli che avrebbero bisogno di lui, anche se il padre ha un altro problema, che l'alcolismo, si dice causato dai traumi vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei è molto affezionata al padre, quindi vive questo abbandono come un tradimento, non si dà pace, prova del risentimento nei confronti della madre, convinta che la famiglia sia stata distrutta per colpa di questa, come dire, debolezza affettiva della madre. Per tutto il periodo dell'adolescenza tra Sherry e la madre Marie ci sarà un rapporto molto conflittuale che lei racconta in una biografia che si chiama Neon Angel, The Sherry Curry Story, pubblicata nell'80 e poi riscritta e ripubblicata nel 2010 con l'aggiunta, diciamo, di molti dettagli adulti che lei aveva omesso nella prima versione. Con mia madre non avevamo mai avuto quello che si potrebbe definire un tradizionale rapporto madre-figlia. Non le dissi mai della mia prima mestruazione. Sandy era l'unica ad aiutarci in queste cose. Da adolescente per mia madre ero un mistero. Non mi sentivo mai abbastanza brava o adeguata. sia ricerca di non pensare troppo alla situazione complicata che vive la sua famiglia, passa le serate con gli amici in discoteca e prova una droga molto cantata nel rock, l'ha cantata anche David Bowie in una canzone che si chiama Time, la droga, il Qualud, e trova conforto nella musica e in un artista in particolare, proprio David Bowie. Lei lo idolatra, sa le sue canzoni a memoria, tutti i suoi dischi, una sera riesce a vederlo dal vivo all'Universal Amphitheater e le sembra di vivere una esperienza soprannaturale, e la capisco. Quell'uomo bellissimo, ipnotico, strano, stava cantando per me e sebbene non riuscissi a esprimerlo a parole, istintivamente capii che stavo vivendo qualcosa di mistico. Ogni verso echeggiava da un lato all'altro del gigantesco teatro e cadeva intorno a me come una pioggia di meteoriti. Quella sera fui testimone di un'autentica rivelazione. Eh sì, David Bowie in quegli anni è adorato da adolescenti di tutto il mondo, è un messia, è un messia anche per lei, e soprattutto in seguito a un episodio che le accade dopo il concerto, quando lei ha 14 anni, è da sola a casa, in camera sua, quando dalla porta finestra arriva il ragazzo della sua gemella che ha 26 anni. Sherry ha paura di lui, lo invita ad andarsene, a lasciarla stare, lui continua a fissarla, è ubriaco, puzza, ha i vestiti sporchi, è concitato, la scaraventa sul letto e la violenta. Lei vorrebbe urlare, è terrorizzata, non riesce ad avere il controllo del suo corpo. Dopo questo trauma lei decide di tagliarsi i capelli come Bowie, di tingerli come lui. A scuola la prendono in giro, la deridono, ma adesso lei è diversa, è più consapevole della vita, si sente più forte. Non volevo più sentirmi spaventata, non volevo più sentirmi una ragazzina qualunque di periferia e nessuno avrebbe mai più potuto farmi del male. Il falco e il gabbiano. Lo Sugar Shack è un locale per soli minorenni, niente alcolici e nessun individuo troppo adulto di quelli che vogliono frequentare le discoteche per avvicinarsi alle ragazzine. Sherry e la sorella Marie frequentano questo locale, spesso diventa casa loro, anche perché la madre è lontana, è presa dal suo nuovo uomo. Tutti conoscono queste ragazze allo Sugar Shack, è proprio qui che una sera la vita di Sherry Curry cambia per sempre, nel bene e nel male, perché qui Sherry incontra per la prima volta Kim Foley e Joan Jett. Kim Foley, record producer, you heard of me. Have I like your style, a little Bowie, a little Bardot. And you are? Cherie what? Cherie Curry. Read my lips, we love your look. We are choosing you to be a part of rock and roll history. Do you want to be in the band? L'incontro tra Sherry e Foley è andato pressappoco così, è stato ricostruito dalla regista Flora Sigismondi nel film del 2010 che si chiama The Runaways, film che vi consiglio, con Kristen Stewart nelle vesti di Joan Jett, Dakota Fanning in quelli della nostra protagonista. Insomma, Kim Foley e Joan Jett si stanno avvicinando al bancone, Sherry sta bevendo una bibita, fanno apprezzamenti sul suo stile, che è uno stile particolare, un po' la Bowie, un po' la Brigitte Bardot, le chiedono se sappia cantare, lei dice di sì, e allora le dicono di prepararsi una canzone di Susie 4 per il provino, le danno appuntamento sabato successivo, ore 14, Canoga Park, nella San Ferdinando Valley, per entrare nelle Runaways. Quando arrivò il sabato, ero sul punto di svenire, di vomitare o farmela addosso. Non avevo mai provato un'ansia simile. Tutto a un tratto tornavo a sentirmi come la vecchia Sherry, piccola, innocente, spaventata. Perché cavolo avevo accettato? Sedevo in macchina con Sandy, in viaggio verso il provino, e mi ero già mangiata le unghie fino alla carne. Mi riguardai nello specchietto retrovisore e subito mi pentii di averlo fatto. Sembravo una merda, bella e buona. Quel giorno, e non per la prima volta, mi venne da pensare che le Runaways avrebbero potuto darmi una sola occhiata e dirmi: vattene a fanculo. Eh sì, le Runaways sono delle ragazze particolari. La band si chiama The Runaways, che vuol dire le fuggitive, perché loro lo sono veramente. Scappano dalle regole, dalla scuola, dalle situazioni che vivono in famiglia, che spesso sono complicate. Joan Jett, Lita Ford, Sandy West sono delle ragazze determinate, vogliono fare carriera nella scena rock. Quando Sherry comunica di avere scelto come canzone Fever, che è un lento di Peggy Lee, le tre già si arrabbiano, si alterano, soprattutto Lita, la chitarrista, con la quale Sherry avrà sempre dei problemi per tutta la permanenza nel gruppo. Kim Foley, dal canto suo, non ha intenzione di fare da mediatore tra le ragazze. Evidentemente immagina e pensa che questa tensione, questi risentimenti possano volgersi in positivo. Insomma, le insulterà anche con nominativi degradanti, le metterà l'una contro l'altra. Fever peraltro non va bene neanche a lui, sparisce con Joan Jett e un'altra ragazza nella stanza a fianco. Dopo un po' tornano con una canzone scritta apposta per lei, una canzone che diventerà peraltro la più famosa del gruppo. Cherry Bomb, una canzone rude, molto in stile Runaways, finirà nell'album di esordio, album omonimo del gruppo, uscito nel 76. Cherry diventa così una ragazza selvaggia, wild, come dicono loro, una foxy lady, come avrebbe detto Jimi Hendrix, una femme fatale, come avrebbero detto i Velvet. Insomma, è una che ammalia i ragazzi e anche gli adulti. E dopo che lei canta la canzone non ci sono dubbi, è la persona giusta, lei è nella band. Sherry Bomb però è davanti a un bivio, deve scegliere se rimanere col gruppo o seguire la madre e il fratello in Indonesia, perché è lì che la madre vuole andare, e lei sceglie la band. La madre parte senza farsi troppi problemi e lei si ritrova con sua sorella Maria a vivere a casa della zia e della nonna. Insomma, le Runaways stanno spiccando il volo, firmano un contratto e partono per il loro primo tour nazionale, un tour in cui Sherry appare in scena con un corsetto in pizzo bianco che sarà il suo marchio di fabbrica. Lei non lo abbandonerà mai più. È il tour nel quale le ragazze entrano in un meccanismo che può schiacciarle e che probabilmente le schiaccerà. Sfortunatamente, più procedi su quella linea, più stai tutti insieme, più entri in quel mondo. E noi diventammo parte della folle scena del rock. Non c'è niente da fare. Dopo un po' ti prende. Se tu reciti quel ruolo e ti cali in quell'immagine, alla fine diventi quell'immagine. Kim Foley è uno che non si fa troppi problemi, manda sul palco questa ragazzina di 15 anni che è mezza nuda e non si fa problemi neanche a invitarla, quasi a obbligarla a andare a letto con altri artisti se questo serve. Dopo un concerto per esempio lui costringe Sherry a seguire un famoso artista a casa sua senza dirle il vero intento dell'uomo. Lei ci va e non ci passerà qualche ora come promesso al suo manager, ci passerà tutta la notte guardando il soffitto dopo che lui ha abusato di lei. E non è la prima volta, lo sappiamo, che lei vive un abuso sessuale, purtroppo non sarà neanche l'ultima. L'unica persona con cui lei instaura un rapporto di amicizia, ma anche di droga e di amore, è Joan Jett. Quando ripenso a Joan e al nostro rapporto, sento ancora un lontano tremore dentro di me. Dio, avevo bisogno di quel tipo di legame, soprattutto quando mi sentivo così fuori dalla realtà. Come posso spiegare che per una persona che era la mia migliore amica provavo una forte attrazione sessuale? Tutto quello che posso dire è che con quell'amica passai dei momenti che mi fanno fremere ancora oggi. Chiaramente siamo in un ambiente dove la monogamia non è imperversa, e quindi l'affetto che lei ha per Joan non le impedisce di avere una storia sessuale con un roadie che si chiama Scott, che è quello che procura alla band la droga. E il tour prosegue, si va in giro per gli Stati Uniti con i soliti leggendari party post-concerto, nei quali ovviamente l'alcol e la droga la fanno da padroni. La promiscuità è sempre più presente. Kim Foley, oltre a insultarle, comincia anche a non pagarle e sta per dare un'altra dimostrazione della sua supremazia, perché sta per dare alla band una lezione spregevole, una lezione sessuale, perché droga e stupra la più giovane del gruppo, che è Jackie Fox, la bassista. Il falco e il gabbiano. La puntata di oggi è dedicata a Sherry Carr, che è la front girl delle Runaways, un gruppo rock femminile molto attivo nella seconda metà degli anni 70, forse la prima heavy metal band composta da donne, quantomeno rock band, diciamo. Lei si avvicina al mondo del rock che è una ragazzina a 15 anni, e insieme a Joan Jett, a Lita Ford, a Sandy West e a Jackie Fox dà vita a questa avventura con alti e bassi, colpi d'ala in alto ma anche in basso. Viene intrappolata, diciamo, nel vortice della droga, della manipolazione, della violenza sessuale. È una storia fatta di molte ombre, di poche luci. La ragazza viene distrutta sia fisicamente che emotivamente, e lei è già giovanissima dipendente dall'alcol e dalla droga, e lo rimarrà per molti anni. Nel 75 le Runaways stanno vivendo il loro primo vero grande tour, aprono i concerti di gruppi più famosi e cominciano a conoscere gente del calibro di Jimmy Page, Robert Plant, Rod Stewart. Una sera però accade una cosa sconvolgente di cui tutte le ragazze della band non diranno una parola per anni. È la prima lezione sessuale dello spietato Kim Foley, il loro manager. È una lezione che vive sulla sua pelle proprio la più giovane, la bassista Jackie Fox. Kim Foley, infatti, la droga e la violenta davanti a tutte le altre sue compagne. Ecco quello che ricorda lei. Ero sdraiata supina su un letto e il roadie si avvicinò a me e mi chiese se stavo bene. C'era Kim in piedi a fianco a lui e gli disse: vuoi scoparla? A lei non interesserà, e a te? Io provai a dire di no e mi resi conto che non riuscivo a parlare o a muovermi. L'unica cosa che potessi fare era stabilire un contatto visivo con il roadie e proiettare mentalmente la mia paura, pregando che non lo facesse. E per fortuna disse di no. Ma è invece Kim Foley, continua da solo questa lezione sessuale, ma soprattutto questa prova di potere nei confronti delle ragazze della band. Loro rimarranno in silenzio per anni sull'accaduto, negheranno di essere state presenti o addirittura affermeranno che Jackie fosse consenziente. Insomma, questa storia crea anche una spaccatura all'interno delle ragazze, forse era proprio quello che voleva Kim Foley. Alcuni testimoni affermano che Kim mi violentò con il manico di una spazzola, cosa che per fortuna non mi ricordo. La cosa che ricordo chiaramente è Kim sopra di me che mi stupra, io che guardo oltre di lui e vedo la camera piena di gente che mi fissa. Dopodiché persi i sensi. E qua si comincia a rotolare verso il basso, tanto perché l'atmosfera all'interno del gruppo diventa sempre più tossica, le ragazze sono sempre più distaccate, non si sopportano, le dinamiche del gruppo vengono messe a dura prova dalla droga. E poi c'è un'altra caduta verso il basso, perché Sherry rimane incinta e il padre pare sia il Rodi durante il tour europeo, e per 2 mesi e mezzo lei, che non sa di aspettare un figlio per non stare male, prende sempre più cocaina e Qualud, non mangia, perde peso. E poi, una volta tornata a casa, sta così male da avere delle convulsioni, degli svenimenti. Insomma, viene ricoverata in ospedale e scopre di aspettare un bambino. Lei, per contratto, non può abbandonare la band, la sua famiglia non è in grado di mantenere né lei né tantomeno un neonato. Insomma, non ci sono altre scelte. Sherry dovrà abortire. E non è tutto, perché una volta uscita dall'ospedale lei intanto scopre che l'uomo che l'aveva messa incinta in realtà era andato a letto anche con quasi tutte le altre ragazze della band, ma soprattutto scopre che le sue compagne hanno quasi finito di incidere il nuovo album, peraltro un album molto bello, Queens of Noise, e lo hanno fatto senza di lei. Per lei è una pugnalata alla schiena, è stata tagliata fuori. E il rancore che Lita, John e Sandy avevano nei suoi confronti era causato, insomma, da gelosia. Il fatto che lei avesse fatto dei servizi fotografici da sola, delle copertine di giornali da sola, come spesso accade, il frontman riceve più attenzione degli altri e molti se la prendono. Poi, insomma, stiamo anche parlando di adolescenti arrabbiate, abbandonate a se stesse, che lottano per fare carriera, ma che nel frattempo, insomma, non sono lucidissime. Eh sì, perché Sherry è sempre più devastata dalla droga, soprattutto lei, quella che sta pagando il prezzo più alto, è quasi anoressica, collassa alle feste, litiga con la sorella quando le requisisce le pasticche, piange, insulta, grida e poi torna nel vuoto, diciamo, di una mente che ormai è un po' alla deriva, è cullata da questa sensazione di nulla, di vacuità che viene data dalla droga. Quando le Runaways partono per il Giappone, il clima è veramente teso e nessuna di loro è capace di immaginare cosa succederà durante quel tour. Tutto accadde a un soundcheck. Avevamo appena finito quando Jackie appoggiò il basso su uno di quei fragili supporti per chitarra e ovviamente non l'aveva messo nel modo corretto. Tutto a un tratto ci fu uno schianto, il basso era caduto e si era distrutto. Quando vide le condizioni del suo amato strumento, mi accusò di averlo preso a calci di proposito. Non ho idea di come avesse potuto pensare una cosa simile. Sebbene trovassi Jackie irritante da morire, per nessun motivo avrei fatto una cosa così crudele. Dopo il concerto, Sherry decide di andare a chiarire la situazione con Jackie, ma quando entra nella sua camera trova la ragazza con un vetro in mano e i polsi sanguinati. Sta tentando il suicidio. Mentre mi precipitavo nella stanza, lei continuava a tagliarsi con il vetro. Mi avventai su di lei e cercai di strapparglielo di mano. Nella lotta finii per tagliarmi un po' anch'io. Non avevo mai visto nessuno in quello stato. Il basso era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, ma alla fine tutta la merda che avevamo dovuto sopportare nelle Runaways era culminata in questo. Quella stessa notte Jackie cerca di mettersi in salvo, prende l'aereo per tornare a casa, ufficialmente esce dalle Runaways, ma è... Il clima all'interno della band non è amichevole, anzi loro interpretano questo gesto come una mossa egoista e continuano immediatamente il tour con una sostituta. Tornano dal Giappone, Jackie Fox viene sostituita da Vicky Blue, una nuova bassista, ma ormai l'armonia all'interno del gruppo è un ricordo. A Sherry viene proposto di comparire sulla rivista Rolling Stone in copertina, però da sola. Lei, per cercare inutilmente e tardivamente di salvare la band, rifiuta. Però la fine di tutto arriva durante una sessione fotografica con il mitico Barry Levine, che era un fotografo già noto a Woodstock, il fotografo preferito dei Kiss. Quel giorno Sherry chiede di terminare gli scatti entro le 6 del pomeriggio per lasciare la macchina a sua sorella, però Lita Ford arriva con 2 ore di ritardo. Scoppia una discussione furibonda tra le due, Sherry se ne va per sempre. Kim Foley, a questo punto più mite del solito, prova a chiederle di tornare nella band, lei si rifiuta, ha già sopportato troppo, anche lei ormai è fuori, non avrà mai più contatti con le altre per più di 30 anni. Kim Foley a quel punto le propone un album da solista e lei accetta. Nonostante tutto quello che avevo passato con Kim, ero così stanca, sconvolta e confusa che volevo solo che tutto fosse a posto. Mio malgrado, mi sentii ottimista quando riagganciai. Senza aggiungere altro, andai dritta in camera, presi un qualude e crollai a letto prima di addormentarmi, esausta e drogato. Beauty's Only Skin Deep è l'album da solista di Sherry, ma è un album insipido, troppo compiacente, è un album di una che vuole fare successo a tutti i costi, e il risultato è un genere, quello che in inglese viene chiamato middle of the road, il pop commerciale che cerca di accontentare tutti e non cattura nessuno. L'album non ha successo, lei viene scaricata definitivamente. A questo punto della storia noi ci stiamo immaginando una donna adulta. Bene, lei ha 17 anni, non ha più una band, non ha più la ragione, passa le giornate a bere, a drogarsi, rimane vittima di un incidente stradale, decide di rimanere sobria per un po', insomma cominciano questi alti e bassi tipici, smetto e riprendo, però la fortuna non è mai dalla sua parte. E una sera, mentre aspetta che la sorella vada a prenderla in un locale, lei fa l'incontro più terribile della sua vita. Viene rapita, picchiata, stuprata da un fan per una notte intera. Vidi una limousine verde ferma dietro di me. Un ragazzo con i capelli lunghi, biondi e mossi, aveva la testa fuori dal finestrino con un sorriso enorme. «Ehi, Cherry! Quanto tempo! Ti ricordi di me, vero? Vuoi un passaggio?» E Sherry quel passaggio non avrebbe mai dovuto accettarlo, perché una volta salita in macchina lui comincia a accelerare, la picchia quando lei vuole tornare indietro, ma non si torna indietro, c'è una casa isolata in collina a aspettarla e nessuno potrà sentirla gridare. Il ragazzo che si chiama James la trascina in cucina, le fa ingoiare una pasticca enorme mai vista prima, la scaraventa sul letto, le dice: «Ho già ucciso 6 ragazze a Dallas, tu sarai la prossima». Insomma, inizia una notte terribile, una notte fatta di violenza fisica nella quale lei è convinta di non poter mai più rivedere la sua famiglia, prova a scappare, cerca di fuggire dalla finestra del bagno, pugnala il suo carnefice con un coltello, ma è tutto inutile, anzi la sua situazione è destinata a peggiorare. Non riesco nemmeno a spiegare cosa ho passato. È difficile raccontare alcune delle cose che quell'uomo mi fece. Dirò solo che il terrore, l'orrore e l'umiliazione che mi inflisse furono ben peggiori di come mi immaginavo l'inferno. Mi fece male con i suoi pugni e con il suo corpo. Lo fece e lo rifece e lo rifece ancora. Ogni volta che urlavo, piangevo e chiedevo pietà e perdevo sangue o svenivo, lui sembrava diventare più forte, più esaltato dalla lussuria e dal sadismo. Giunsi alla conclusione che mi avrebbe uccisa non appena avesse finito di torturarmi. Si salverà invece, promette al suo aggressore di andare a Dallas con lui, di vivere come una coppia felice, perché lui evidentemente è devastato dalla pazzia, lui l'accompagna in macchina a casa di un amico per prendere le sue cose e la gente la vede, rimane scioccata perché lei è completamente ricoperta di sangue, insomma arriva a casa, si chiude dentro, collassa, il suo aggressore scappa e lei è salva. È un altro trauma incredibile per la nostra Sherry, gli psicologi e la droga non riescono a fare molto per lei. La redenzione sarà portata dall'amore, è un colpo d'ala che la riporterà alla vita, perché la sorella Mary si sposa, dà alla luce una bambina e forse proprio per questa nipotina lei decide una volta per tutte di smetterla con la droga, diventa addirittura tutor di ragazzi drogati. Anno dopo anno, insomma, la sua vita riacquista sapore, diventa madre a sua volta, si afferma come scultrice, alla fine riesce anche a riappacificarsi, non so come, non so perché, con Kim Foley e con le altre runaways, insomma, è approdata faticosamente a una parvenza di vita normale. Il rock and roll ha sempre chiesto oboli molto alti ai suoi protagonisti, soprattutto in quei decenni, in quei contesti, soprattutto a Los Angeles. Quindi le storie legate al rock and roll in qualche modo sono piene di alti, bassi, colpi di scena, momenti terribili e momenti di gloria. E così è successo anche alla nostra protagonista, a Sherry Curry. Se volete mandare dei